andiamo, Billy, su, su, su che andiamo, su. Grammi d'acqua, metti, affitto, piano piano la devi mettere. E poi una volta che è impastato, prende la lasci 4 ore a riposare. Si va a stare un po' raddrizzente. Quando sei pronto, buono, il rosso nella deglia, buono, e ripagli tutto nella deglia, bello, su da riva, se ti cucciari, vieni buono, mi. Così sai la misura giusta dell'olio. Ah, il sale pure devi mettere, il sale nell'impasto devi mettere. Lo lasci 4 ore a riposare. Quando il forno è a 200, se buono, rimpasto nella deglia e tira in forno. Ogni tanto controlla quando prende il colore e la toglie, no? Ho capito. Dove l'hai presa quella teglia? Da cosa l'ho presa? Da risparmio casa. Costa 12 euro, sono due teglie ti danno, perché una confezione è da due teglie. Infatti adesso me le prendo altre due, perché una l'ho data a Franco, capito? Che siamo andati assieme. Una ce l'ha lui e una ce l'ho io. Siamo obbligati pure la farina di ceci, che l'abbiamo trovata alla CRAI, dove c'è la ferrovia, dove c'è la litorina lì, al latte dolce, c'è la CRAI. Vai lì e la compri lì la farina di ceci. Ho capito. Ma c'è anche da qualche altra parte o no? Come? C'è anche da qualche altra parte questa farina di ceci. Penso di sì, però tu vai lì, che sei vicino, e rammi gli inchivi. Ma sai, a chi torni non ha pigliato anchivi. E costa pure poco, costa giusto. Quindi metto 400 di farina in cece, giusto? No, 200 grammi per 800 grammi di acqua, quella è la dose. Se da voi ne vuoi fare 400, ne vuoi 800, 1000, 1 litro e 600 ne devi mettere, capito? Se ne devi fare 400 grammi, allora devi mettere il doppio dell'acqua, capito? Perché per 200 grammi ce ne vogliono 800, ha detto Tonino. Ho capito. Adesso me la compro, me la provo a fare, mi compro una teglia. Mandami la foto su WhatsApp, che me la piglio uguale, pure io, appena che posso. L'ho data a Adriano a provare a farla la farina. Comunque è tonda, va, rivolgi, è facile farla con quella teglia. Dal risparmio casa l'ho presa io, di quelle antiaderenti. Una confezione costa 12 euro, costa. E ce ne sono due di teglie nella confezione. Ma sono quelle che ti durano. E allora, come te la badita che va giù, antiaderente, quella tipo pietra, è grigia, è la teglia. Ho capito. Si riesce a far tirare giù a Rusai Cantù Ripalmi, perché costa 250 centesimi la confezione, mezzo chilo, quindi un chilo costa 5 euro. Infatti ne fai 5 dedi con un chilo. Ma guadagna, attacca con gli 0, 20 euro, ma come si fa? Ma che costa un chilo 5 euro costa. Lui mi ha tiro di burutonino. Ma anche mi era grave un dito a giudizio. Ci tirava giù, rifaimi un bello. E poi tira voi pagura sacchista, tira voi pagura ziota, come anche voi. Allora posso venire un cazzo. Ma pento, la metti l'impasto. Lo fa riposare per 4 ore. Dopo passate le 4 ore tu accendi il forno, accendi. Quando sale a 200 il forno si inforra edda. Se buone la fai nella deglia e tira il forno. Ho capito. E poi per farla, ci vuole la misura per farla nella teglia, per farla giusta. Come? Ci vuole la misura. La misura mi pare che di circonferenza quasi 40 centimetri è giusta, ma chi c'ha la dose di raffreddi? C'è il misurino, c'è giusto. No, che ne è misurino, no, l'ho misurata io per sapere se entrava nel forno di Adriano, perché lui fa la prova, io domani devo fare altra cosa, non la posso fare, se no l'avevo fatta io. La duplicità da Edda, a Edura Adelia, così ha detto, ha misurato il forno e entra nel forno elettrico suyo, compreso. Anda benissimo. Adesso vediamo come esce. E ti saprò dire. Però gliel'ho detto io come fa la Asturia, no? Dovrebbe uscire bene per porta. Cappa. Ma stavo dicendo un'altra cosa io, stavo dicendo che adesso appena che posso me la faccio. Sì, infatti. Anche io, da voi ti mando pure a voto come ti scida. Lo faccio sinceramente, a me piace pure divertirmi. Quando la faccio. A voi non piace perché i risultati sono sempre. Io mi arrabbiato, anche a me mi piace un bel, però a mia moglie non ribiazzi. E da si piglia la pizza io mi porto la fanno i pari cavoli miei. Io sono sempre. Certo, non ribiazzo, ne mangio un bel. Ce la fai bene, non tu arriva mi devi punire, compreso Miradiglia, sette cucchiai, ricordati, segnatela la cosa, e così almeno con una, lo devi spargere con una cosa di plastica, amico, una paletta di plastica, capito, per non graffiare la teglia. Ci vogliono le spartolette di plastica. Attenzione, hanno i fascia la deglia, chi ce l'ha faccio di la di Pirampane. Ma dico, per farla più grossa, più fine, ci vorrà una misura, ci vorrà. Non la va a ponti, si vedi? A ponti non la devi vanno. A chi se no te ci grossa grossa. Se vedi che ce ne sta troppa, tu fai ma di a un certo livello, no? Ma mi dai voglio, se vedi mi anda via che c'è la misura. No, tanto non mi inviate troppo grossa. No, si intende, no. Troppo grossa. Mi piace, vino è croccante a me. Franco. Grossa ti piace, Antu? No, troppo grossa non mi piace a mangiarla. Deve essere normale. Ingegno. Ciao Natalino, ciao anche ad Antonio. Buonasera. Buonasera, ben entrato anche a lei, signor Franco. La teglia l'ho prestata a Adriano a falla. A vedere come ti dice, che dovrò porre elettrico, ma Tonino che fa rubare elettrico, bra. Scappa di positivo, ma va bene anche quella a gas, va bene lo stesso, non c'è problema. So, qui fa cosa a giudicare, tra cosa domani a Manzano, io lo sai cosa giudicare, e quindi no, non la posso fare, l'ho prestata a lui che c'ha il forno elettrico, coso Adriano. E prova a farla, vedi come ti riesci. Ah, già c'è bene, non ci sono problemi. E il problema lo sai, che devi lasciarla alimentare 4 ore, capito? Devi lasciarla riposare 4 ore. E dopo va bene. Infatti subito non la puoi fare, no? Devi la galla riposare fa 4 ore. Via Giudita, Antonio ce la può fare, cruendo. Vuole riposare a 4 ore, una volta che è riposata 4 ore a sentire un forro, quando sta a 200 il forro andava con l'impatto nella teglia e se ne forri e sai più e beh cappa e va bene sì e a chi lo forro devi dare un goi per fare niente compreso e quindi vuoi altro. Quattro ore devo lasciare. Allora, poi. riposare per 4 ore, poi metti intorno a 200, la metti nella teglia con l'olio e poi la infurni. A me te lo posso vedere come la porto. E la giubbata la c'hai? Guardami quando puoi, fra, la foto di quella teglia che la voglio vedere, me la voglio pure io uguale. È una teglia normale, Emmy, una teglia da pizza, di quelle rotonde, l'abbiamo comprata lì a Voteggiano, in modo conveniente. Ando pure io me la piglio. A risparmio casa che costano poco, 12 euro ce ne sono due. Risparmio casa, cioè sì, ce ne sono due, 12 euro, e va bene. E io posso vedere, voglio vedere cosa annesce. Tu sì, e ci vengono, però mi dimmi tu quando dico la cosa io. C'è la grande. Come ti vuoi dire, vai, cura sacchista, cura ziota, come ci ti pare ti piace? Prima prova la normale, no? Ma poi come ti vedi, che te ci vai? Ma vai, come ti pare ti piace? Allora, chi si dì? Tanto che già mi ricordo tutto, già non me ne dimentichi una tale. Mi ricordo tutto io, quello. Ma di mille cose. Ehi, se no ti disegni di Rudy Gueu, e te la segni la ricetta, sai, vivo? Sì, è il problema. Adesso buccio la ziota, tra, e si guarda la grande. Sì, la fai fino a vina la zioda e ti la mone dentro. E da poi mi diverù. E da poi diventa pura e anche sana. Ma poi niente rodio. Che la muovi da Nevara? Andiamo i nonni. Ma mi senti a tu, sì? Qua sì, no. Cosa tu? Compa, sei qua. Non lo fate. Sì, ma mezzo. Non ci credi in Natali? Ehi, a chi va a zona? Tu a me mi arrivi con due scala, Roma stessa. Io lo stesso sto uscendo con due vatti. Ehi, con due vatti sono. È una zona bella questa. Ma anche quella dove abita Antonio, già è buona. Come zona. C'è anche più morto di Natali, ho messo cannolino. E qua arriva forte lo stesso. Arriva un po', sì no? Sant'Emma di gomma, amico, in vera macchina, esci bene. Esci bene già, però non ho provato ancora più distanza. Più distanza la sentivo arrivo a Sassari tranquillo, anche dall'Argentiera sono arrivato. Dicono, volevo provare io, ma ecco, ma... E quando entra niente di vora, la bruvi, assai vivo. Quando entra per esempio quello di Porto Torres o qualcuno da Alghero, da Sussu, entra Dubranco l'altra volta e mandato il controllo, lo chiedi a loro, quando entrano è così ti rendi conto, ma già se arrivi forte qua, quando scala qua stai arrivando, mi hanno detto. Già lo so, già me l'hai detto già. E allora, vedi bene che ha migliorato la situazione, vedrai che arrivi anche fuori. Già lo vedo già, ma più forte di Franco quanto Franco, più o meno. E io c'ho il smitter di quello a barrette, non è di quella a lancetta, però mi arrivi con lo scala, oggi. Non ce ne sa più, arrivi proprio a fondo scala, 9.30. Vabbè allora. Fa benissimo, non bene. E Franco lo stesso, ma arrivi a fondo scala buio Franco. Ma Franco fa una posizione, oia. È un bel in alto Franco. No, no, guarda, che mi sono accorto che non la so sottovalutare. Anche io ho una posizione, non sono in alto ma la posizione. Sì, la posizione tua va bene, se te lo sto dicendo. Quando entra nei cacchi, non lavora, io devo andare a controllare quando tu si discende. Poi te ne accorgi, perché li senti più forte di come li sentivi prima. Perché come ricevi, trasmetti, come trasmetti ricevi pure, è più forte. Ma arriva fra quei sotto la bomba qua. Ammalato, molto scalo. E ne accorgi perché senti anche a loro più furti. Tutti a bomba mi arrivano. Se vedi bene, se hai migliorato la ricezione e anche la trasmissione ha migliorato. No? E tu ce ne puoi 30 minuti. Sì, anche tu no. Se non puoi 30, non tocchi il libico, ma Franco, ma se non puoi 30. Perché ho due batti io, mi sto dicendo con due batti. Già si può regolare, no? Fino a 15 batti mi sembra che arriva, ma io ne uso sempre due, ora me ne appunto. Sì, allora. Natali, volevo provare il quel Cobra più 4, vero come vi arrivo. E prova, attaccalo. Sicuramente non lo so, perché lui è più vicino a te, Franco, io sono più lontano. No, ma il fatto che lui c'ha la posizione è un bel nato, Franco. Impreso. Oltre che più vicino, è un bel alto lui. Sì, adesso devo mettere il palo più alto, devo mettere. Ma non ce n'è bisogno, lasciala così. Perché tu, se arrivi quando scala non si muove più lo smitter. Stai tranquillo che arrivi più forte di 9.30. No, no. Arrivi voce pure all'altri. Mica io sono in basso confronto a Franco. Aspetta un attimo, Natali che mi ha squillato il telefono. Sì. E io quando arrivo una tariffa. Vai. 1, 2, 3 provo a. A te solo perché sei piccolo ti faccio pagare lo smitter se me lo rompi. Hai capito? D'accordo. Te lo pago subito, e contatelo voi. Come ti vuoi, contanti, isolanti. Fondo scala, Giormarica e Pittina. Ascolta, anche tu non puoi prendere qua. Allora io va bene, dai. Vi stiamo ascoltando, dai. Però rimango in quel ricchezzo guardando la TV. Guardati la TV, grazie per essere entrato, dai. Ti arrivi 9.30 qua, non c'è problema, Giormarica. Tu arrivi un po'. Vabbè, ma non voglio che ti canta, ero qui, ma arrivi 9.30. Come la tua, perché per cui siamo tranquilli, già va bene, dai. Siamo troppo vicini, per cui cosa vogliamo pretendere? Anche troppo. Io ho due watt, mi. Perché fa da un minimo di 2 watt e poi si può regolare questo qui, no? È di quelli moderni, come quello di Giulio, è questo, il baracchino. Con 2 watt e rubo un cammino, così non aggiungo il regolare nulla. A minimo mi dà 2 watt. E vedo che mi sentono tutti. Ringrazio tutti voi, naturalmente ci vediamo. Infatti siamo troppo vicini, siamo. Anche Bombolo mi arriva a 9.30. Aspetta che è entrato Franco. Oh Franco, cosa volevi? Guarda a vedere com'è che arrivo questo Cobra, se va bene, che non mi di tempo fermo. Benissimo, sta arrivando. Mi chiedi il controllo a Gio Maria, che c'è anche Gio Maria è entrato. Gio Maria, buonasera, come mi ascolti Gio Maria da te? Ciao Fra, buonasera, la radio più chiara questa di questa qua, è meglio questa perché è più chiara. Come segnale sei 9.30. Come segnale? 9.30. Tu vedi da te come sta arrivando? Uguale sta arrivando, 9.30. La radio è molto più bella di quella di poco fa. È più chiara rimane, perfetta, ecco. Quella magari, quella di prima è più pesante, più grossa la radio. Mentre questa è bella pulita e c'è tranquillo qua. Maneggiando sta Franco, va. Vabbè, riprendete voi la serietà, vi ascolto e che sto guardando un programma. Ehi, faccia pure, faccia come che sia in casa sua. Ciao Gio Maria, alle prossime. D'accordo, ciao. Oggi chiedo pure io a Tonino Gatta non è entrato. E quindi Natalia andava bene, dai. Sì, benissimo. Si è adattato a quelle medie più 4 qua. Sì, andava bene, Fra. Allora, perché ce l'avevo un po' di tempo fermo, ho capito. E quindi dovete essere l'uscio. Andava bene su Govra, dai. Io più bello alla radio, mi pare. Ti ha detto pure Gio Maria. E vabbè, qua l'ho adattato il suo... il microfono preamplificato perché quello che c'era era un bidoncino. Io ti sento benissimo. all'ospedale, io mi sto mettendo a mangiare, fra, già entro più tardi al limite. Bombolo sta per Gio Maria, se n'è andata a guardarci la TV. E attenzione a Talino. Io, Greco! Oia, oia, mi dica! Ehi, ecco qua, sono rientrato, la stazione! Ehi, c'è anche Franco, che chissà cosa sta maneggiando, io mi stavo mettendo a mangiare, che devo pigliarmi la pastiglia. Antu, al limite ci sentiamo più tardi, là. Va benissimo, andiamo avanti. Che a parte? Qui che non sei scendendo l'antenna, vedi? E beh, non c'è più nessuno. Io ci sono. Tutti a mangiare sono andati. Hai curato di sei? Cosa? Ma qua ha fatto un passaggio dove non sta riuscendo. Lo so, Antu, perché ero senza antenna. Stavo connotando e ho sbagliato posizione. E poi andavo uscito. Ma c'è un miracolo. Ma lei è comunque. Che ha acceso questo adesso? E no, io già, ecco, vabbè. Se andava, ho detto, commutatore, ha portato il telefono. No, c'ho questa 3, il buio, ma va dato manuale 5, il buio, non ne ho altri, Antu. No, vabbè. E che si gradetta G, non si viene a nulla, ma che dai, cosa te ne fai? Fate detto musica. Ma questa è della Vicistronis, è a 3, un ingresso e 3 uscite. Cazzo, non riesco a trovare un buonissimo orologio della testa G, che funziona perché è una meraviglia, non riesco più a trovarlo. Rosmetro testa G, ma pigliati il Diamond, che è un bel Rosmetro Sirio. Cazzo, ma qui ci funziona proprio però. Lo so, a tu, però... Io ce l'ho qualche pezzo di Rosmetro testa G, ce l'avevo, ma non sono molto affidabili. Cazzo, come l'avevo comprato io quella di lusso, funzionava a me, non lo trovo più, né uno simile, ma non serve a nulla. Cazzo, l'ultimo che avevo comprato era una pompa, ce l'avevo fatto pagare, però era buono. Ma qual è quello piccolo? No, quella due strumenti. Ah, ho capito, e quello non lo fanno più Antu. No, io ho il Diamond, l'SX200, ed è perfetto, va benissimo. No, che già lo fanno, usano. Cosa? Lo fanno, lo fanno. Ma quello che avevo io, cazzo, funzionava ben bene, non lo trovo più. Non riesco a capire, ho cambiato casa, non riesco a capire dove ce l'abbia messo. E magari ce l'ha messo a qualche parte e non riesce a ciapparlo. Dai, quando dici la cosa gli arusavi non la ciappi tanto batte il mezzo. Quando non ti serve te la trovi in mezzo ai piedi. In garage l'avevo portato, ma... Non so cosa dirti. Cazzo, ma io sono una sede, non funzionava bene. La verità, l'avevi pagato, non è che mi hanno gratis, se no. Questo che ho io funziona benissimo, niente da dire, va bene. Vabbè, io lo tengo sempre, vabbè, io ho anche l'accordatore, quindi è tutto sotto strumenti qua. Ci succede qualche cosa da te, ma me la vedo subito. E beh, mi abbia pagato qua, c'è 80 euro, mi ha pagato. Però ti dico, cazzo, che funzionava ben bene. 80 euro? Sì, una cosa del genere mi abbia pagato. Ma me lo ricordo, non so, non me lo pagavo, non l'ho pagato. Va bene, funzionava bene. E beh, quel cobra come esce a tu, va bene. Il cobra è tuo? È nuovo, nuovo. Sì, va bene, sì. Vabbè, ce l'avevo sempre spento, ma è bello come era, una bella radio, solo che non c'ha le bande laterali, ma usami in affondi. Le bande laterali non vanno quasi mai io. Qui ascolto i 40 vetri, capito? Però non ci parlo quasi mai, cioè, non mi interessa. Mi giusto, là c'è non niente per farmi una chiacchierata qua. Di solito sto al computer. Ma vabbè, più nulla tu. Non ne vale la candela e quindi di nai i cosi. Sono soldi buttati. Cosa si dicono? Con il rumore che si intende. Ma te, mi dà per accedere. Ma in definitiva è così, non è che c'è un bello discorso. Sono ben allampato davvero, eh. Vabbè, lo sai cos'è, è quando, c'è la passione, che ti blasa una cosa, a tratti. Sì, ma vediamo quando va a correre devo buscare qualche... Ci sentiamo, ciao, tu buon carica a tutto, ce la riascolta le bruce, saluta in casa e un bacino al bambino, ciao ciao. Ciao ciao, comunque questa cosa è una botta, appena che posso. Sì, prova a farla, poi mi vai già bene. Sì, ciao.